Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia e buon sabato da Alberto Pellai. Alberto! Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti! Qua si galoppa, eh? E andiamo veloci, altro che, tra l'altro oggi abbiamo proprio una puntata dove dobbiamo mettere tutta la nostra energia a disposizione dei nostri ascoltatori. Ne abbiamo ancora? Sia i genitori che i figli. Allora, noi oggi parliamo, è quasi doveroso, degli esami di maturità. Abbiamo, insieme a Federico Taddia, abbiamo dedicato, Radio 24 ha dedicato proprio una notte, no? Notte prima degli esami, prima degli iscritti. Adesso gli iscritti sono terminati e i ragazzi si stanno preparando all'orale. Alberto. Sono a metà della loro... Anzi, direi. È fatto ormai, insomma, gli iscritti spaventano in modo non indifferente e molti genitori sono un po' sotto esame insieme ai loro figli. Quindi, a chi lo dici? Signori e signori, Nicoletta Carbone è mamma di una maturanda. Do la maturità, l'ho già data per me, per la mia prima figlia, adesso con la seconda. E devo dire, sono alla terza maturità. E devo dire che così come è stata brava la figlia, questa volta è stata veramente brava anche la madre. Cosa ha fatto? Con una leggerezza, con una tranquillità. Con un'eleganza, facendo finta di niente. Allora oggi ce la giochiamo bene perché mettiamo tutti i protagonisti, Alberto, se sei d'accordo. Perché abbiamo una mamma, anche papà, Alberto sicuramente dirà la sua. Abbiamo un insegnante che è un po' quello che, almeno per i ragazzi e per alcune famiglie, in questa sorta, no, di copione fa la parte del cattivo, o meglio della X, l'incognita, soprattutto se un membro esterno. Noi invece, per noi non è un'incognita, è un amico della trasmissione, è il professor Matteo De Benedittis, professore di italiano, insegna in un liceo in un istituto professionale e in un liceo di Reggio Emilia. E soprattutto anche voi, se ve lo ricordate, lo conoscete già, perché è autore di un libro, Canta mio DJ, il sottotitolo è Lezioni parecchio alternative di italiano. Dottore, professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. La stavo, già chiamando dottore. Senta, senta professore, io le do del tu. Grazie. Questo mi solleva anche un po' pensando alla maturità della mia bambina. Poi abbiamo quindi il professore, lei farà il cattivo o l'incognita, ma abbiamo anche uno studente. E che studente, Nicoletta? Pensa che alla fine del primo quadrimestre ci ha chiamato in redazione, ci ha detto che era un maturando e che voleva venire dentro al nostro programma. Per cui abbiamo detto sospendiamo tutto, aspettiamo che arrivi l'esame di maturità e poi vieni con noi in trasmissione. Quindi con noi abbiamo Fabrizio. Ciao Fabrizio. E ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora Fabrizio, gli esami sei quasi a tre quarti. Sì, ormai gli iscritti li abbiamo terminati ieri proprio col quizzone, la terza prova. E adesso da lunedì iniziano gli orali e quindi... Oggi però tanto per riposarti sei venuto a fare una diretta oggi, radiofonica, sì, esatto. Che è quasi emozionante come un orale della maturità. Quello sì. Non quindi, vedevo l'ora di... Quindi fa una pre-prova, in fondo è un po'... una pre-prova. Ecco, un po' agevolato, Alberto. Sì, sei più agitato per l'esame o per il programma in radio? No, sono tranquillo in generale per tutti e due. Pensavo di emozionarmi anche con gli esami, invece visto che giorno per giorno li ho affrontati in maniera tranquilla, serena. E Fabrizio per noi è un ospite molto molto importante perché oltre alla sfida degli esami lui ha un'altra sfida perché è un ragazzo non vedente e quindi chiederemo anche a lui proprio come si tengono insieme tante fatiche tutte in un colpo solo per fare gol all'esame di maturità. Allora, in tutto questo entusiasmo ci siamo dimenticati di ricordare il nostro numero verde 800 24 00 24, in cui sono invitati naturalmente i prof, vero Matteo? Invitiamo i prof, le incognite, i cattivi, i buoni, quello che sono. I genitori e sicuramente anche i colleghi di sventura di Fabrizio, chissà, magari mi chiama anche la mia bambina, speriamo, non ci conto. Ma noi adesso, dato che vorremmo confrontarci un po', dare anche consigli, fare riflessioni, ricordare, no, questo periodo, molti di noi si ricordano ancora la maturità, io sentirei subito, Alberto, se tu sei d'accordo, i consigli di tre personaggi dello spettacolo, Fiorello, Enrico Bertolino e Carla Signores, che sono intervenuti nello speciale di cui vi parlavo prima, quello di Federico Taddia, Notte prima degli esami. Li sentiamo perché ciascuno di loro ci offre degli spunti che possiamo poi commentare insieme. L'emozione è forte, eh? Dopo come ha studiato tutta la notte prima, sai, ti potrei dire qualsiasi cosa, ma poi alla fine quando sei lì davanti ti devi vivere quel momento, se ci metti troppa ansia allora magari non riesci manco a aprire bocca. Invece andare sereni, pensare che sia studiato, quindi di essere preparati e di fare questo esame. Sai, chi non studia lo sa, può avere l'ansia e dice: sai, mi sono preparato un argomento a piacere, speravo che me lo chiedano, e invece poi magari no. Quando si ripassa, mai evidenziare troppo, perché alla fine rimane in mente solo quello che non è evidenziato. Ottimo. Io ho visto che sui libri evidenziano tutto, no? E poi dopo ti ricordi solo quei buchi non evidenziati, che a volte non servono. Evitare appunto, quando ti dicono la domanda più trabocchetta è quella, ci ti parli un po' di quello che vuole lei, cercare di arrivare a riportare un argomento fisso, perché poi il fattore ci incide, piuttosto che preparare tutto male, preparare qualcosa bene, e se possibile esordire con uno sguardo alla commissione, contatto fisico, contatto visivo non verbale, sì, e possibilmente anche con un sorriso non tremante, perché piuttosto che il sorriso aiuta molto a distendere anche gli interlocutori. Parlate anche del tempo, ma parlate agli orari. Nelle interviste faccio così, quando non so rispondere faccio un po' come i politici, quando sviano la domanda parlando d'altro. Questo è... Io ho capito che in fondo è un po' anche il metodo di chi riesce poi a superare con brillantemente gli esami, la maturità, poi... Insomma, in realtà di consigli non ne so, credo che la tensione, così la paura della prestazione ci sia, ma come ce l'ho io adesso a 50 anni per qualsiasi cosa devo fare, quindi non va via quella paura. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Prof, il fattore C, il fattore C aiuta, e Carla Signores diceva, devo dire quello che dico anch'io alle mie figlie, parlate. Sicuramente il silenzio è la risposta peggiore a una qualsiasi domanda in sede d'esame, ma per quello che riguarda la fortuna, una cosa che sono solito dire ai miei studenti, colgo l'occasione per dirla anche a Fabrizio, anche se non so se la desidera, è questa: allenarsi al meglio e prepararsi al peggio, cioè fare tutto quanto è il nostro potere per prepararci nel modo migliore, studiando, scegliendo un argomento, ma poi essere pronti anche al fatto che la commissione può non darci la soddisfazione che speravamo. Certo. Io ad esempio, quando ho fatto l'esame, perché una cosa buffa è che io ho fatto l'esame uguale a come lo fanno i miei studenti, e di solito sono l'unico di tutto il collegio docenti, no? Perché sei giovane. Allenarsi al meglio, prepararsi al peggio. Esatto, sì, nel senso che anche io quando io mi sono diplomato nel 2000, quindi sono 10 anni che mi sono diplomato ed era il secondo anno di questo nuovo esame. E allora era successo che ho fatto una tesina, un approfondimento sulle chiese costruite negli ultimi 50 anni a Reggio, e il professore esterno di storia dell'arte non mi chiese assolutamente niente di questa tesina. A quel punto, appunto, io ero un po' demoralizzato, chiaramente, perché speravo di poter approfondire questo argomento, che su quale mi ero preparato, ma andò così. Quindi prepararsi al meglio, ma allenarsi al meglio, ma prepararsi anche al fatto che non tutto vada come uno spera, insomma. Senti, comunque un po' di pressione per essere sotto esame anche in trasmissione, io lo capisco. Fabrizio ci chiedeva fuori onda, ma adesso questo prof mi farà delle domande? Farai delle domande a Fabrizio? Certo, gli chiedo come sta, come si trova, se è pronto, se è rilassato e soprattutto che tema ha fatto, mi interessa particolarmente. Allora, io devo dire che il primo giorno ero molto agitato, come tutti i miei compagni di classe del resto. Il tema che ho scelto è stato il tema sulla musica, perché essere un ragazzo non vedente, il saggio breve mi porta anche della difficoltà in quanto devo muovermi nei vari documenti, e quindi ho cercato di evitarlo e di seguire il consiglio della mia docente di italiano, che mi ha detto che se usciva un tema di ordine generale di cui conoscevo l'argomento, di fare quello. Io infatti ho optato su quello ed è andato anche bene, perché ho preso più della sufficienza, quindi... E vai, 824 0024, raccontateci come andate i vostri figli, raccontateci voi ragazzi come avete vissuto questi scritti, consigli, suggerimenti, soffiate non possiamo farne, non ne abbiamo per tutti. Assolutamente, sai che sono, mentre parlava anche il professor De Benedittis, io rivedevo il mio esame di maturità, io l'ho fatto molto prima di lui, e mi domandavo, per noi genitori che vediamo i nostri figli entrare nell'esame di maturità con modalità completamente diverse, che ricordi ci attiva, per esempio, poi che differenze notiamo tra il nostro modo di prepararci di allora e quello dei ragazzi di oggi? Io vedo molti studenti davvero più capaci di stare dentro alla fatica, di gestire l'ansia, è davvero così? E un altro aspetto che secondo me è importante provare a raccontarci insieme è: secondo voi gli esami delle scuole servono davvero ai nostri figli? Sono stati aboliti quelli di un tempo di seconda elementare, poi sono stati aboliti quelli di quinta elementare. Molti dicono gli esami non servono a niente. Voi genitori come la pensate? La maturità secondo me è ancora un po' uno dei pochissimi riti di passaggio che è rimasto ai nostri figli, che fa un po' da spartiacque tra il ragazzino e il futuro adulto. Ce n'è bisogno oppure no? Secondo voi è davvero utile che i figli abbiano delle prove così strutturate con cui si devono confrontare e devono verificare come sono capaci secondo di te affrontare? Io trovo che l'esame di maturità... Fai una domanda e datti la risposta. Io trovo che l'esame di maturità sia proprio una prova che mette lo studente e il ragazzo alla prova con se stesso, e devi proprio affrontare alcune incognite, alcuni imprevisti. È una delle tante prove che dovrebbero esserci tra i 14 e i 20 anni. Fabrizio, sì, tu ci sei dentro in questo momento, sì, diresti, quindi... vabbè, preferirei di no, però sì, cerca di portarti avanti, insomma, secondo te è giusto questo esame così impegnativo, avvolto così da tanta attese, leggende, insomma, l'esame di maturità, appena uno entra in prima elementare ti parlano già dell'esame di maturità che avrai all'ultimo, sì, no, all'ultimo anno di scuola. Allora, secondo me sì, comunque è giusto affrontare un esame, perché comunque è un bagaglio di cultura generale che uno può avere personalmente, perché per esempio quando si parla di vari argomenti uno, avendo studiato, può conoscerlo e quindi può affrontarlo anche con gli amici, con le persone. Però certo, un po' quello impegnativo, sì, perché comunque non sembra, ma bisogna studiare parecchio e poi non è facile, anche dal punto di vista... Non è facile. Tu cosa cambieresti dell'esame di maturità, Fabrizio? Allora... Hai tempo per pensarci, perché io devo andare a salutare Marco, che ci chiama da Lucca. Buongiorno Marco. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno al professore. Vede che bell'accento che avete voi di Lucca, adesso i fiorentini mi malediranno, i pisani, insomma l'accento toscano in genere. Marco. Bene, grazie. Allora niente, io volevo intervenire dicendo che praticamente io ho il terzo figlio, ho 57 anni, quindi il terzo figlio ha fatto le prime prove di maturità in questi giorni. E praticamente l'ultima prova, cioè il quizzone, non so come sia andato. Con tutto questo, diciamo che subito dopo le prove, il giorno dopo, hanno già dato dei primi risultati per quanto riguarda una votazione. E' è andato a vedere, è tornato a casa molto disperato perché il voto era abbastanza basso, quindi ha preso 23 nell'insieme. E quindi ha messo tutti in ansia, tutti noi in ansia, un grande apprensione, di conseguenza capiamo la fatica enorme che ha fatto in questi anni. Però e niente, volevo chiedere al professore, allora, che infatti Matteo, Matteo, che speranze ci sono per il figlio di Marco? Dunque, allora adesso bisognerebbe entrare un po' sul tecnico, sapere con quanti punti era stato ammesso all'esame, per vedere un po' qual è la prova che deve fare all'orale per riuscire ad avere almeno 60. Effettivamente sì, 23 è un voto un po' basso, ma io sono sicuro, io ho visto nelle mie esperienze anche voti agli iscritti piuttosto bassi, ampiamente compensati da una brillantezza all'orale, appunto, di, come diceva anche prima Bertolino, appunto affrontare l'orale con un sorriso, insomma, cercare di arrivare preparati e anche brillanti. Io consiglierei a questo ragazzo di Lucca, città bellissima tra l'altro, di allenarsi a parlare, ripetere tutte le cose che sa, intanto per essere sicuro di saperle e poi perché una volta che arriva all'orale si è messo un po' nei panni dei professori, ha provato a immaginare quali possono essere le domande che i professori gli possono fare e in questo modo ci arriva più pronto, più preparato e nella speranza di prendere un bel voto. Allora, a proposito di parlare, Luisa ci scrive: questa di parlare va bene, evidentemente si riferisce al consiglio di parlare, va bene per materie umanistiche, ma per materie scientifiche meglio tacere che dire fesserie, dimostrando che non si è capito nulla. Alberto, Io credo tu hai fatto che... lo scientifico, a differenza mia che ho fatto il classico. A volte, di fronte a un'interrogazione di matematica oppure di fisica, effettivamente il silenzio è l'unica risposta necessaria, perché non puoi inventartela la risposta. E quindi a volte il silenzio, dire, oppure provare a rinegoziare la domanda, cioè dire: in questo momento non riesco proprio a trovare una risposta, ma mi aiuti a capire in che direzione. Arrivo subito al punto, ma prima vorrei, e la prendi un po'... un po' indietro, cioè, così secondo me è fondamentale che lo studente chiarisca con se stesso: ma io so che cosa mi stanno chiedendo e non so rispondere, o non ho capito cosa mi stanno chiedendo, perché questo spinge poi in due direzioni diverse. Posso dare anche io un consiglio allo studente che è così, certo, in difficoltà rispetto all'esito delle prime prove scritte? Cioè, quando uno ti dà un voto, ed è un voto brutto, una delle tentazioni è dire: io sono quel voto, e immediatamente deprimersi perché ci si sente falliti o bocciati. Io, proprio come consiglio psicologico, direi a questo studente di credere di più in se stesso, cioè: non sono andate bene quelle prove, ma io non sono quel voto, io valgo molto di più e ho una grande occasione che è l'orale per poterlo dimostrare a tutte le persone che mi esamineranno. Se parto con questa convinzione, perché so di valere di più di quello che mi è stato assegnato, a quel punto entro in questa sfida con la convinzione che c'è molto di me che ancora non è stato raccontato dalle due prove già valutate e che devo assolutamente far scoprire ai miei insegnanti, e quindi l'orale è quell'occasione. E per tornare a noi, studia Leopardi. Leopardi? Se all'esame sei in difficoltà te lo chiedo. E il nome di questo fenomeno è tettonica a placche, che sembra una brutta parola, ma invece è... no, perché è scientifico, perché infatti queste placche scivolano tra di loro perché sono molto scivolose e... Molinari, la vedo un po' in difficoltà. È l'emozione, presidente. Posso fare una domanda io? Certo. Passiamo ad italiano, Molinari. Vorrei che ci parlassi di un grande poeta immortale che quest'anno abbiamo studiato con particolare attenzione, vale a dire Giosuè Carducci. Sì, Giosuè Carducci nasce a Val di Castello nel 1835, in provincia di Lucca, e muore a Bologna nel 1907 all'età di 72 anni, un anno dopo aver vinto meritatamente il premio Nobel. Come lei ben sa, fu poeta e critico letterario. Dopo una giovinezza repubblicana si avvicina alla monarchia e diventa il vate ufficiale della nazione. L'attività critica concilia inquadramento storico... Se c'era una cosa che avevo imparato in 5 anni di liceo, era che non bisogna mai fidarsi di un professore. E così avevo ripassato tutti i poeti italiani. Tutti. Tranne Leopardi. Allora, Alberto, beh. Questo entrare, andare agli esami con una strategia ben chiara in testa, l'abbiamo visto tutti. Però, questo film dice... L'importante è prepararsi. E credo che poi alla fine... competenza. Adesso cerchiamo di smorzare un po' i toni di questa ansia, ma è un esame sicuramente serio e, come diceva il professore, il nostro professore Matteo De Benedittis, bisogna allenarsi al meglio e questo vuol dire, certo, prepararsi, credo, adeguatamente. Rispetto anche a quello che dicevamo prima, cioè servono gli esami. Io proprio da docente universitario ti dico che quando uno si prepara bene alla maturità acquisisce un metodo che poi gli serve anche per la preparazione degli esami universitari, perché si entra in un ciclo di studi in cui non c'è più la verifica tutti i mesi, il compito scritto, l'interrogazione, e uno deve imparare ad automonitorare la propria preparazione e a gestire una quantità e una qualità di informazioni da poi portare in sede d'esame, che è molto più complessa, per cui è proprio una, direi, una prova, un laboratorio. Allora, Daniele ci dà un suggerimento per il figlio di Luca, ma voglio confrontarlo anche e chiedere al nostro professore. C'è anche la discussione degli scritti all'orale, quindi il figlio del signore di Luca si studi la soluzione dei suoi scritti per riscattarsi oralmente. Allora, da questo, se un ragazzo per una serie di ragioni non riesce a fare uno scritto brillante, Matteo, che cosa suggerisci? È vero che c'è questa possibilità poi di discutere oralmente e a discrezione della commissione? Che cosa suggerisci di fare tecnicamente? Dunque, allora, la discussione degli scritti è prevista dal regolamento, quindi è una tappa obbligatoria. Dipende chiaramente un po' dal presidente, dalla commissione qua, e anche dalle singole interrogazioni, quanto spazio dare a queste discussioni. Certo. Nella mia esperienza è capitato che soprattutto i professori delle materie scientifiche magari partissero dalla discussione della prova per poi spaziare su altri argomenti. Quindi sicuramente avere ben chiaro, fare una verifica, no? Verificare come sono andate le prove scritte, quali sono stati i pregi, i difetti, i punti di forza, i punti di debolezza, è un'autoverifica che solitamente viene molto apprezzata, ecco, dalla commissione. Quindi mi sembra un ottimo consiglio. Mi sembra di andare bene. Quindi Roberto ci chiama da Parma, buongiorno. Buongiorno, salve. Ci racconti, Roberto, noi siamo qua. Benissimo, no, mi rifacevo prima a un intervento con cui si diceva appunto che soprattutto nelle materie umanistiche, se non si sanno bene le cose, meglio parlare anche di altro. Mi ricordo il mio esame di maturità, quindi si va indietro, 84-85, sì, in cui il tema era: se un satellite gira intorno alla Terra, che cosa vede? In sostanza una discussione praticamente sulla situazione, sì, sui costumi nel mondo. Ma da bravo appassionato di aeronautica io sono uscito totalmente fuori tema, ho fatto la storia dell'astronautica fino ad allora, e mi sono salvato appunto in sede di revisione, di orale, insomma, con cui si discutevano anche gli scritti, appunto perché c'era come materia storia, dalla discussione sul perché mi sono messo a discutere sullo Sputnik piuttosto che su quello che succedeva sulla Terra. Il professore di storia si è riagganciato, mi ha fatto discutere della guerra fredda, della fine della seconda guerra mondiale, e ho ottenuto un buon voto. Con quanto è uscito, se lo ricorda? No, mi ricordo che rispetto allo scritto l'orale era andato così bene che ho ottenuto quasi il massimo, ecco, però non, quindi ecco, soprattutto io vorrei dare modo agli ascoltatori, ai figli che hanno figli che magari hanno, non tutti come Fabrizio sanno già la votazione, ma temono di aver avuto degli iscritti un pochino, Alberto, così e così, magari che l'orale possa fare un po' la differenza, che giochiamocela bene. Che poi ci racconta Roberto, è proprio una commissione di maturità che è molto interessata a verificare la qualità, la quantità dello studio, ma anche direi un po' il profilo dello studente che ha davanti, perché io posso raccontarti invece la mia prova di maturità, che è stata molto buona in orale sulla prima materia. Sulla seconda materia avevo un docente, mi avevano cambiato la materia subito il giorno prima, io in realtà mi ritenevo molto preparato e ho avuto proprio una sequenza di 10 domande la data di, l'altra data di, quella data, quando è successo, giorno, mese, anno. Ecco, 10 domande di questo tipo e io ho proprio avvertito che l'obiettivo in quel caso era mettermi in straordinaria difficoltà. Me la sono cavata bene, avevo effettivamente studiato. Ti eri preparato al peggio. Ma sentivo proprio che quello che mi stava succedendo era una cosa che non era un esame di maturità. E ti dirò che questo mi ha rinforzato tantissimo, perché quando è uscito il voto io non ero minimamente interessato a sapere come erano andate le cose. Fabri, allora, e tu come ti stai, come pensi di prepararti in questi giorni? Studiare tutti i giorni, ripassare tutte le materie, studio di gruppo, a che cosa darai la precedenza? Allora, è sicuramente la precedenza la darò a ripassare le domande che mi hanno fatto in terza prova, perché sicuramente sono sicuro che partiranno da quello, per poi agganciarmi a altre materie. E come studio preferisco studiare individuale, perché in gruppo non si sa mai, diciamo, perché le persone in gruppo non ti senti, non riesci a concentrarti. No, perché magari bene. Uno arriva è una cosa molto individuale. Sì, perché magari uno è arrivato a un punto, un altro un altro punto. Esatto, certo. E poi preferisco... tu probabilmente, Fabrizio, come studente non vedente, la nostra radio è la radio ufficiale. Sì, esatto, sì. Avrai tutto un tuo metodo di studio particolare, dovrai usare dei materiali. Allora, sì, io utilizzo il computer praticamente collegato alla barra Braille e ho anche possibilità di utilizzare la sintesi vocale, che è questo mezzo che mi permette di velocizzare la lettura, e quindi io studio in questo modo. E devo dire che non è facile, perché comunque non è facile sentire da un disco e memorizzare quello che c'è scritto. Purtroppo io non posso nemmeno evidenziare le cose più importanti, perché io col computer potrei farlo, però purtroppo i miei apparecchi non riconoscono le lettere evidenziate, quindi è come se non lo facessi. Però ecco, con difficoltà sono riuscito ad arrivare agli esami e rispetto al primo quadrimestre sono riuscito anche nel secondo quadrimestre alzare i voti, infatti ho 4,7 in pagella, invece nel primo quadrimestre avevo 5 insufficienze. Quindi noi siamo orgogliosi di Fabrizio. Perché abbiamo conosciuto Fabrizio, che proprio ci ha chiamato in redazione parecchi mesi era fa. Molto arrabbiato per la pagella del suo primo quadrimestre. Allora, noi dobbiamo quasi salutarci, direi. Allora, un consiglio dal nostro prof. Rapido. Allora, dunque, una cosa, vorrei tornare sul fatto che l'esame di maturità è il primo degli esami universitari e quindi confermo quello che diceva Alberto prima, è un momento molto significativo dove esce la verità di quello che sei e diventi veramente adulto, dove apprezzi il gusto di fare le cose fatte bene. Quello che distingue un adulto da un adolescente è la volontà di fare le cose fatte bene. Allora, grazie a Matteo De Benedittis, ricordo il suo libro Cantami o DJ, il sottotitolo è Lezioni parecchie alternative d'italiano. Fabrizio, c'eravamo promessi una cosa, che tu volevi salutare. Io ci tenevo molto a salutare la classe quinta G dell'Istituto Antonietti di Seo, di cui dove ho studiato, e siccome ho cambiato classe il primo anno che sono stato con loro, sono anche molto emozionato a dirlo, mi sono trovato veramente benissimo con loro, li ringrazio dell'aiuto che mi hanno dato, anche del sostegno, una classe meravigliosa, anzi una classe modello, direi una classe matura, esatto, devo dire, no? Grazie a Fabrizio, in bocca al lupo a Fabrizio. Grazie a tutti, grazie a voi. Alberto, noi ci salutiamo e ringraziamo anche Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, e Anita Panizza in redazione e assistenza. E ci vediamo e ci sentiamo sabato prossimo.